Questo programma è presentato da Spettro Records. Siamo di nuovo in collegamento da via Sebastiano Serlio. Abbiamo come ospite un amico. Lui come d'artista si fa chiamare Monkey Astronaut, la scimmia astronauta. Già il nome ti dovrebbe far capire un po' come questo personaggio sia poliedrico. All'anagrafe risponde al nome di Riccardo Chionero. Ci siamo conosciuti in comunità 10 anni fa e da allora abbiamo legato molto. Ciao Riccardo, volevo farti qualche domanda sulla tua musica e poi ci puoi parlare un po' anche di come sta proseguendo questo programma di riabilitazione nella società. Ciao, ciao Patrizio. Sono a Milano per andare a vedere. Ma no, è che no, la fabbrica del vapore. Cioè, questa cosa è cominciata così che niente, io ero lì potrebbero essere miramente. Credo sotto Cheta, non sono sicuro, non me lo ricordo, c'era cioè, tipo un buio di 7 anni e mezzo, una roba così. E io vedo questa foto, no? Che c'è questo bambino che va su un aeroplano, no? E c'ha la maschera da scimmia. Allora dico, oh, e basta. Certo. Volevo anche sapere, mi hanno detto che tu vorresti far parte di questo nuovo pianeta, Kendale. Che? Kendale. Ah sì, sì sì, praticamente cosa, cioè, in che veste cioè, cosa vorresti essere in questo nuovo pianeta? Mi piacerebbe moltissimo essere tipo un parroco, no? Perché cioè alla fine la gente ha bisogno della fede, cioè uno pensa di no, no? Perché c'è una... È una stagione, cioè è un periodo dell'uomo, no, che è tutto tecnologico, no? La gente dice solo scienza, però cioè, hai bisogno, capito? Cioè, hai bisogno di allungare la mano a quello che non è scibile, no? E a quello che è tipo, cioè, non lo, cioè, hai capito, no? Cioè, è chiaro? No, sei chiarissimo, Monkey Astronaut, manderemo... sicuramente dei tuoi interventi musicali. Bella, Oyo, grazie. Prossimamente. Grazie. Volevo farti l'ultima domanda. Cosa fai a casa solitamente? Si può dire. Beh, a parte che volevo salutare i ragazzi del fratello, che sono sempre carini, che quando mi trovano a faccia in giù nel mio vomito mi tirano sempre di lato, così non annego. È una roba che davvero, cioè, non è tanta la gente che lo fa, cioè è abbastanza bello. E poi niente, cos'è che mi hai chiesto? Cosa fai a casa? Come ti trovi da quando sei uscito? Ma bene, a parte i vicini che sai che hanno un po' la puzza sotto il naso, perché qua a Bologna la gente è un po' stronza, cioè dipende dalle zone, poi non è vero, no? Perché tipo quelli del fratello sono carini, però boh, cioè, se non so come la voce si è un po' sparsa, allora hanno paura, tipo quando c'hanno i bambini e te li tengono lontani, cose così, cioè neanche capito, cioè no. Ma a te piacciono i bambini? Mi piacciono in che senso? cioè tipo non da scopare, ecco, non da scopare. No, no, ma piace nel senso più figurato. Ah, sì, sì, cioè tipo io volendo, cioè 2-3 figli li farei. No, ma io intendevo se tipo, cioè, le useresti come capra per delle no, sulle nuove droghe, tipo il crocodile, no, ma come i topolini, sai, che adesso sì, vanno molto in Inghilterra. Cioè, sai cosa? Dipende da com'è il cinno, no? Perché se è uno polleggiato, magari sì, sono di quelli che è già preso male alla nascita, no, tipo come ero io, non so se è una buona idea, no? Perché rischi che poi. Cioè, vado a puttane l'esperimento e la droga non faccio un cazzo. Bravo, esatto, esatto, hai capito perfetto, sempre cioè, troppo sul pezzo. No, comunque no, mi piacciono. Però ho capito, cioè, la gente ti giudica un sacco, no? Come se uno non potesse mai sbagliare. E alla fine, boh, ma io me ne fotto, gli metto. Raccolgo la merda dei piccioni dal mio davanzale, no? E gliela metto nel buchetto delle lettere. Cioè, almeno a quelli che fanno più le merde, gli altri magari no. Che poi non mi danno la chiave dell'ascensore. Cioè, io voglio la chiave dell'ascensore, capito? Non l'ho pagato, ma chi se ne frega? Datemi la chiave, cazzo me ne frega, sto al quarto piano. Datemela la chiave. E non mi danno la chiave, capito? No, ma ti capisco, anche mia madre ha avuto lo stesso problema. Sì, sì. È che non tutto è di tutti, non lo capisco. Cioè, è Kendall, sì. Bravo, sì, esatto. Dovrebbe arrivare quello. Lì sarà una rivoluzione, capito? Perché una volta arrivati lì, cioè, non ci sarà più la divisione, no? Non ci sarà il 2. Lo potrei prendere con chi vuoi. Bravo, bravo. Cioè, faremo tipo degli ascensori che non portano da nessuna parte, ma solo, cioè, solo per andarci sopra, capito? Quando arrivi in cima devi tornare giù, perché se esci muori, cioè cadi, no? Non è una baza. Non è una baza, no? Grazie Monkey Astronaut, mi raccomando, porta sempre avanti il tuo credo, ascoltatevelo qua su 105.g Baby Radio con Monkey Astronaut. Grazie uomo, grazie, grazie. Baby Ciao ragazzi, sono Alessandro Labazza. Se vi piace fare pezzi, venite alla Gioarta. Abbiamo allestito dei pannelli bianchi su cui potete scrivere il nome delle vostre crew. Potete fare le tag e anche ricopiare per finta i pezzi di blu. Alla Gioarta 2015 ci sarà anche l'evento Candale. Potete fare il saluto al sole e fare il pezzo di DJ Patrizio. Se ti piace il gusto Moseggi, vieni in Babilonia. È nuovo aperto qua, in via della Grada, Babilonia. Qua abbiamo agnello, piede di pistacchio. Siamo una catena alimentare. Ti piace il vero gusto Moseggi come goulash? Tu vieni qua. Via della Grada, di fianco all'ortopedico. All'ortopedico. Noi aspettiamo te. Buonasera compagni, dopo di Zac Taglierino non si è visto un paperino, siamo riusciti a intervistare anche Rick Rabetto che è riuscito a lanciare la sua nuova linea di vestiti Plumors. I vestiti Plumors sono quelli che usiamo per farci, perché si sta più comodi e si suda di molto meno. Grazie a Rick Rabetto abbiamo questa opportunità di poter vestire pagando poco ed ergonomicamente. Quindi al prossimo, sicuramente alla prossima riunione, quando metteremo il nostro nuovo pianeta Kendale, potremo riuscire anche a vestirci tutti uguali. Quindi io volevo sponsorizzare Rick Rabetto e la linea ergonomica di vestiti per tossici. I compagni le lunghe rende schiavi, non ci andate a lavorare, state a casa, non va bene lavorare, il lavoro non nobilita, il lavoro ti sancassa la schiena e basta. Chi lavora fa gli scioperi, sono primordiali. Cioè, a me questo tipo di società, questa io non me, cioè una cosa manco, mi distrugge e basta, non me ne frega niente di vivere in una società così. Cioè se dicono l'eroina ti ammazza, cioè, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Però io sto bene, io mi faccio una vera e questa vita, capito? Quando c'è il problema non so, dopo mi faccio una vera, perché a me sta andando la stessa cosa, sono modo del vedere i rapporti che si stanno, a me non mi interessa, non mi frega niente, a me diventa un auto, non me la faccio niente, me ne vado a schiena. Se faccio la pera di invece di rovinare la faccio la piramida così punto, se vado a 200 all'ora, questo è come penso io. We'll be right back. non succedeva di erne difficile rapportarsi con la velocità delle libellule. Stefano Cipolla vi risolve il problema mediante prodotti a gas che le vendiamo noi, come rallentare le libellule che non vi si infilano dappertutto quando andate negli stagni a vedere i chupacabra. Ci pensiamo noi, quei prodotti a gas. Stefano Cipolla vi risolve il problema gravoso sociale che è diventato. Prodotti a gas Stefano Cipolla e le libellule saranno delle lumache. Il vostro lampadario fa sempre la stessa luce? Noi abbiamo inventato il braccialetto monouso che stanca meno gli occhi. È un braccialetto fosforescente, raggi X, ultravioletti, non che vanno negli occhi, diretto e riflettono sul pavimento. Da Roberto in via Emilia Ponente 14. Braccialetto monouso, sostituite il ventilatore, il lampadario con un semplice braccialetto. Let's start the party. Baby Radio! Yeah! Ciao DJ Patrizio di Ocan, sono Cisco, qua da Verona però, sono Cisco di Verona, Dio canaglia. Siamo in Verona City Ramblers, non hai capito un cazzo DJ Patrizio. Ah, noi ci abbiamo suonato figa il 1° maggio, minchia, abbiamo suonato un sacco, tutta la sera, non ci hai messo nella top 10 DJ Patrizio. Comunque un saluto. E poi ti faccio parlare anche con Roberto di Torino qua. Ciao DJ Patrizio, sono Roberto di Torino. Dobbiamo andare a fare in culo perché non parli mai di noi. Torino City Ramblers, siamo tutte città di sognatori. Non ci sono solo i Modena City Ramblers, qua a Torino va forte la cosa, hai capito? Qui vive la tossicodipendenza, ci piace la droga anche a noi. Ciao DJ Patrizio, un abbraccio, ci vediamo in carcere. Siamo collegati direttamente dalla factory di Rick Rabetto. Ciao Rick, parlaci un po' della tua nuova linea di vestiti per tossici. Ciao DJ Patrizio, è una linea che ricorda molto gli homeless stile Belgrado anni 90, tipo Dr. Weevil e comunque riprende, richiamo tutta la serie dei rave di Belgrado durante la guerra del Golfo. È una linea che si ispira comunque, come tu ben sai, anche agli alimenti, il formaggio, che comunque pane e pane col formaggino si sa che è la cosa che va più, che va di più per le persone che non hanno tanti soldi. Quindi io ti ringrazio per avermi fatto questa intervista, spero che tutti possano usufruire dei nostri prodotti ergonomici, sono comodi, non costano niente, basta scambiarli in qualche fiala, basta andare in farmacia senza prescrizione medica. Ieri per esempio abbiamo dato una nuova linea ginnica di Rick Ravetto in cambio del Narcan, quindi sì, cioè quello che voglio dire comunque ai nostri amici è che falsi è bello, e tu sai dice Patrizio che la promiscuità ci piace, quindi l'HIV viene trasmessa non solo tramite le siringhe, ma si può trasmettere anche se non si usa le precauzioni. Mi raccomando ragazzi, usate sempre le precauzioni. Grazie Rick, sei stato molto utile. Comunque faremo anche solo una puntata per Kendale, che tratta di ergonomia, quindi sulla comodità, poi vi dirò i posti più comodi per in cui ci si fa, o perlomeno dove ci siamo fatti più comodamente. Grazie per il tuo intervento Ravetto, buona serata. Grazie. Babyradio.es presenta. Sono stato operaia e ho iniziato a bucarmi all'età di 19 anni. A sing song sono Bon Jovi e ascolto Baby Radio. Thank you. A Stefano Cipolla ho risolto il problema della velocità delle libellule. Ora finalmente nel mio stagno vedo solo libellule lente che mi sbattono contro a una minima velocità. Grazie Stefano. Lo trovate in via Sebastiano Serlio 34. Onoranze funebri fratelli Uperchia, perché è morto di crack a causa della bianca. Abbiamo aperto. È morta la tua ragazza, non ti preoccupare, la cremiamo noi. La vuoi cromare? Non ti preoccupare, la cromiamo noi. La vuoi sepolta? Non ti preoccupare, seppelliamo noi. Onoranze funebri, fratelli della grazia. Via Sebastiano Serlio 3.C. Non mancare l'appuntamento con la morte, non si scappa. Baby! This program is proudly brought to you by Spectrum Records. Take a dream world, one day holiday. Buonasera ragazzi, questa sera ci soffermeremo a parlare dell'universo meraviglioso di Ken Ale. Il 15 giugno ci sarà il primo compleanno di Ken Ale e invitiamo tutti a venire all'Uvoleto, dove faremo una spaghettata western. Ci saranno dei grandi classici. Sarà l'unico vero compleanno libero. Da quando sono uscito dalla comunità qualcosa è cambiato, non riesco più a essere incisivo come nelle prime puntate, però ho ripreso a suonare i piatti e mi piace. Infatti farò un DJ set legato alla libertà, aggranerò all'Uvoleto. Ci sarà logicamente la frequenza Freddy Baby Radio 105.5 e ci saranno grandi novità. Presenteremo il ministro di Kendale, Re Romino, che è qui con noi stasera. Un amico che non vedo da tanto tempo, ma che è stato eletto dalla nostra comunità come immagine pulita di questo nuovo pianeta. Volevo presentarlo, lui è una persona un po' strana, un po' introversa, ma al tempo stesso leggendaria. È come il Minotauro, è una persona mistica. La sua esperienza extrasensoriale è legata sicuramente alle droghe chimiche che non agli speedball e alle palline, ma vi assicuro che comunque è un'esperienza importante in quanto stato ricoverato e, come dice la sanità, guarito. Io non so che cosa sia la guarigione, non so neanche che cosa sia la normalità, però vi posso dire che lui, per Kendale, è il nostro ministro della salute, Re Romino. Kendale è in fase di costruzione, lavoro in corso, amici, compagni di merende. Non sbagliamo mai. 105.G, tra poco l'intervista con Re Romino, che ci parlerà di questo compleanno di Kendale. Baby! Thank you. allenare.